italiani! Vota Antonio. Come la rete cambia la politica. E dunque, sentite queste due esperienze sul campo, vogliamo anche farci una riflessione sopra, capire che cosa c'è dietro. Parliamo di questo, ma anche di altro, con Dino Amenduni, che lavora per Proforma, che è un'agenzia di comunicazione che si trova a Bari. Ha curato tra l'altro le campagne elettorali di Vendola e quella di Pierluigi Bersani per le primarie. Dino, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Allora, ti sottopongo una prima riflessione. A me sembra qua che ci sia una sostanziale differenza tra quello che viene detto dalla Germania e quello che ci dice l'esponente del Movimento 5 Stelle, cioè una concezione del controllo sull'eletto molto più stringente nel secondo caso rispetto al primo. Allora, penso che ci siano due piani che sono sistematicamente sovrapposti e in alcuni casi questa sovrapposizione crea confusione. Secondo me c'è una indubbia domanda di partecipazione da parte dei cittadini, soprattutto online, soprattutto quelli abituati a discutere, dialogare, a prendere parte a processi partecipati o a semplicemente interagire con i politici in rete. Questa domanda va in qualche modo soddisfatta. C'è poi la componente invece del, come dicevi tu, del quanto deve entrare questa domanda all'interno poi del processo politico, del processo democratico tradizionale. Secondo me la sovrapposizione crea confusione, perché io sono dell'avviso che non tutti i cittadini vogliono che la delega che viene data al momento del voto sia in qualche modo contendibile nel secondo momento. Cioè l'esercizio democratico consiste nel votare e dare una delega. Quindi non penso che sia un bisogno, una richiesta che coincide perfettamente con la partecipazione. Piuttosto credo che l'eletto, una volta eletto, abbia sempre di più il dovere, non solo il diritto, di consultare la propria base elettorale. Ma questo valeva anche prima, cioè è sempre stata una regola. Cioè prima si faceva sul terreno, adesso si può fare via web, molto banalmente. Esatto, c'è un'aspettativa molto più alta da parte dei cittadini che sanno che attraverso un link, un documento condiviso, un tweet, possono effettivamente aiutare il politico a prendere decisioni migliori. Spesso l'atteggiamento è del tutto costruttivo, se c'è magari un atteggiamento di rabbia, la rabbia è figlia dell'indifferenza da parte del politico che magari non legge un documento sull'ambiente, magari lui sta per fare un'interrogazione parlamentare su quel tema, magari qualcuno gli manda una mail in perfetta buona fede dandogli spunti per riflettere. Questo tipo di interazione, che aiuterebbe il politico a prendere decisioni migliori, viene magari ignorata completamente dal politico e si genera poi un meccanismo di nervosismo legato al fatto che magari uno appunto ha cercato di dare una mano e non ci è riuscito. Secondo me è qui che si deve concentrare maggiormente il ragionamento sulla partecipazione, cioè su un ritorno a un rapporto assolutamente stringente e per il miglioramento della qualità delle politiche pubbliche. E secondo me questo sarebbe già sufficiente. L'idea che appunto la delega sia in qualsiasi momento revocabile, secondo me non è quello che la stragrande maggioranza degli elettori vogliono. Mi sembra però che un sistema di questo genere sia molto importante nella vita dei partiti, in realtà. Sì, infatti purtroppo c'è un'idea di questo dialogo tra eletto ed elettore che solitamente si limita alle assemblee, cioè al consiglio comunale, al consiglio regionale o al Parlamento. Questi processi di ascolto in realtà nelle organizzazioni politiche potrebbero essere ancora più centrali nella ricostruire la fiducia, dare effettivamente una ragione per cui un cittadino oggi debba iscriversi a un partito. Oggi abbiamo una serie di strumenti che permettono molto più facilmente, molto più compiutamente di fare questa sintesi. Però, e questo è un mio appello di ordine generale, attenzione a non confondere le potenzialità della tecnologia con la volontà della politica. Cioè gli strumenti oggi sono maturi, e Liquid Feedback lo dimostra, per ascoltare, partecipare, ragionare e migliorare. Però se manca la volontà politica, anche lo strumento tecnologico più potente non funziona. E questo è evidente. Qua veniamo a quello che è un punto nodale anche per questa trasmissione, per gli argomenti che andiamo ad affrontare tutti i sabati mattina alle 9. Ossia l'utilizzo che viene fatto di questi strumenti dalla politica. L'impressione è che questa volontà politica al momento non ci sia, cioè l'utilizzo di questi mezzi da parte della maggior parte dei politici, perché ci sono lodevolissime eccezioni che abbiamo anche ospitato in questa sede, sia un utilizzo che predilige lo sbattere il comunicato stampa su Twitter. Sì, siamo in una fase di maturità di una prima stagione della comunicazione politica. Cosa intendo? Intendo che volendo utilizzare la legislatura come arco temporale, quindi parlare del 2008 come il punto di partenza dell'evoluzione della comunicazione attraverso i nuovi media, diciamo che col 2013 questo primo circolo finisce. Siamo passati nel 2008 da 600.000 utenti Facebook in Italia, oggi ne sono 21 milioni. In questi 5 anni tutti quelli che hanno potuto, voluto avere una presenza sui social media hanno potuto decidere di farlo. O al contrario di non farlo. Questa prima stagione coincide con quello che dicevi tu, cioè con una idea per cui il solo esserci sui nuovi media rappresentava in qualche modo un fattore di innovazione. Quindi fino a quando non c'era nessuno, i primi si iscrivevano, il solo fatto di esserci e interagire anche minimamente, anche con un atteggiamento top-down, cioè io ti do l'informazione e non me ne frega niente di come tu reagisci, era già un elemento di innovazione. Oggi invece quel tipo di approccio, che è ancora assolutamente maggioritario, secondo me non basta più, proprio per i motivi che dicevamo prima. Cioè, nel momento in cui il politico, soprattutto a livello nazionale, utilizza ad esempio Twitter per cercare di imporre l'agenda dei quotidiani tradizionali, per cui fa il tweet con un link al suo sito internet, poi manda un comunicato stampa in cui finge di citare se stesso, dicendo come ha scritto X su Twitter, in qualche modo impacchettando una confezione assolutamente tradizionale, e poi non segue minimamente ciò che accade un secondo dopo la produzione di quel contenuto, quindi non legge i commenti, non ne fa tesoro, non risponde, non fa analisi dei testi magari per capire esattamente quali sono le parole chiave, oppure se il comunicato è stato utilizzato nel migliore dei modi, se la citazione funziona, se magari bisognava cambiare il tono, se manca tutta quella componente di analisi un secondo dopo la produzione del contenuto, non si fa nessun passo in avanti, si mantiene l'impostazione tradizionale. E questo è un peccato per due ragioni. Questo, scusami, Dino, non fa altro che in realtà marcare ancora di più la distanza tra i cittadini e la politica, paradossalmente. Cioè, un mezzo che dovrebbe avvicinarli, in realtà, in questo caso, proprio perché è un mezzo che viene usato male, segna ancora di più la distanza. Esatto, i social media hanno delle aspettative sociali particolari, per cui questo vale per me, per te, per gli ascoltatori che hanno un profilo di Facebook. Se io scrivo una cosa e un mio amico, e appunto i contatti si chiamano amici non per caso, se un mio amico mi risponde commentando, facendo un'altra domanda, la sua aspettativa sociale nei miei confronti è che io gli risponda, o comunque che io dia un minimo cenno di aver letto, di aver preso in considerazione quello che lui ha scritto. Questa aspettativa sociale dovrebbe essere traslata parimenti su tutte le persone che sono presenti sulla piattaforma, a prescindere dalla loro gerarchia, che tu sia Obama, che tu sia un politico di fascia media, che tu sia un privato cittadino. Se sui social media le aspettative sociali sono quelle, in teoria tutti dovrebbero allinearsi a questa aspettativa. Quindi, quando un cittadino legge un punto qualcosa scritto online, risponde. Lui si aspetta che il politico dall'altra parte risponda. La mancata risposta non è un atteggiamento atteso, ma è un elemento di ulteriore frustrazione, quindi di ulteriore distanza dalla politica. Sì, sono d'accordo con te. Chiarissimo, grazie Dino Amendoni per essere stato con noi. Lo trovate in una serie di posti online. Allora, su Twitter è Duni, scritto Done. Poi naturalmente trovate tutti i link sul nostro sito. Dino, gli indirizzi di blog e via dicendo. Digitate Dino Amendoni su Google, qualcosa per forza uscirà. Grazie, Benissimo. buona giornata. Grazie Dino Amendoni e buona giornata. Ed è tutto anche per questa puntata di Votantonio. Io vi ricordo innanzitutto la replica domani alle 22 se vi siete persi qualcosa, ma soprattutto se vi siete persi qualcosa usate il podcast, andate e scaricate, potete riascoltare la trasmissione anche sul nostro sito internet www.radio24.it dove trovate tutti i riferimenti, anche i link alle cose delle quali abbiamo parlato, trovate anche i nostri riferimenti che vi do un'altra volta, potete scrivere a votantonio@radio24.it, ci trovate su Twitter votaantonioR24 oppure trovate me, Simone Spetia, e poi c'è anche naturalmente la pagina Facebook. Un ringraziamento a Matteo Comes in regia, un grazie a tutti voi per l'ascolto, come sempre da Simone Spezia, buona giornata. Italiani!